in primo piano. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, eccoci pronti per la rassegna stampa di questo giovedì 9 agosto. Partiamo come sempre dal 8 agosto, partiamo come sempre dal Corriere della Sera. Oggi il Corriere ha un'apertura molto politica, è una frase attribuita a Berlusconi o comunque la sintesi del pensiero di Berlusconi. Berlusconi due punti, ora pronti a tutto. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Nel sommario, il PDL si è scagliato contro Epifani. Proprio ieri Epifani, segretario del PD, aveva dato un'intervista al Corriere della Sera che ha poi suscitato una quantità di reazioni incredibili, dove diceva la giustizia è uguale per tutti, quindi noi vogliamo che la sentenza della Cassazione contro Berlusconi sia rispettata. Renzi incalza governo e partito, l'avete sentito anche nel GR, ieri Renzi dopo due settimane di silenzio, che gli deve essere costato parecchio, è tornato a tenere un comizio e ha ribadito le sue posizioni. Ma dalla prima pagina del Corriere della Sera, più che le reazioni politiche, vi segnalo l'editoriale di due economisti, Alberto Alesina, che forse insomma avete sentito anche in passato e scrive anche sul Sole, lavora negli Stati Uniti, e di Francesco Giavazzi, che storicamente scrive sul Corriere della Sera. L'editoriale è molto duro contro il bilancio dei primi 100 giorni del governo Letta, ma in particolare contro gli ultimi due decenni di politiche economiche in Italia. Vi leggo la prima e l'ultima parte. L'editoriale si intitola Agenti occulti della povertà. L'Italia è ferma da due decenni. In questo periodo il reddito medio degli italiani, dati Eurostat, si è ridotto del 14%, mentre rimaneva sostanzialmente invariato nel resto dell'area euro e cresceva del 12% negli Stati Uniti. Da cosa dipende questo risultato drammatico? Il Fondo Monetario Internazionale ha confrontato i progressi compiuti da alcuni paesi nel riformare le proprie economie. Il rapporto si chiama Fostering Growth in Europe ed è dell'aprile del 2012. Ha suddiviso le riforme in due gruppi, quelle che possono tradursi più rapidamente in maggior crescita, cioè riforme del mercato del lavoro, privatizzazioni, liberalizzazione del campo dei trasporti, della distribuzione dell'energia, delle professioni, della distribuzione commerciale, e quelle che invece richiedono tempi più lunghi per produrre effetti positivi, formazione del capitale umano, cioè scuole e università, pubblica amministrazione e giustizia civile. Nella parte centrale editoriale si spiega come sono stati dati i voti in questo rapporto e concludono Alesina e Giavazzi: la lezione per la politica è semplice. All'Italia serve con urgenza uno slancio riformatore. Il governo Letta ha già sprecato 100 giorni. Tranne un passo avanti sull'abolizione delle province e una tardiva e parziale accelerazione dei pagamenti dei debiti alle imprese, ha sostanzialmente fatto melina. Quanti altri giorni devono passare prima che si cominci a fare qualcosa? Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo poi una notizia che trovate anche su altri giornali e anche su altri giornali richiamata in prima pagina, non con questa enfasi però, ed è la questione delle pensioni d'oro, che sono un argomento che, come direbbe Alessandro Milan, da mani sul volante, perché in effetti sapere che ci sono delle pensioni da 3.000 euro al giorno colpisce particolarmente in un periodo di crisi come questo. E le pensioni d'oro, scrive Antonella Baccari, una sorpresa da 90.000 euro al mese. Questa è la classifica dell'INPS, sono 100.000 i super pensionati, costano al sistema ben 13 miliardi di euro all'anno. Ieri il sottosegretario al welfare, Carlo Della Ringa, giurista allievo di Marco Biagi, giuslavorista, lo ricorderete, ucciso dalle Brigate Rosse, rispondendo in commissione lavoro della Camera a un'interrogazione di Deborah Bergamini del PDL, ha rispolverato l'albo delle pensioni d'oro, riaprendo il file delle polemiche. La pensione più alta erogata dall'INPS ammonta a 91.337,18 euro lordi al mese. L'approfondimento lo trovate a pagina 8, ci sono anche i faccini, come diciamo noi in gergo giornalistico, cioè piccole foto dei cinque assegni più ricchi. Sono quello appunto di Mauro Sentinelli, a cui spettano questi 91.337 euro al mese, un ex manager Telecom, 52.000 euro a Mauro Gamba, ex direttore generale di Interbanca, 51.000 euro ad Alberto De Petis, ex Infostrada, 45.000 euro a Vito Gamberale, 45.000 a Alberto Giordano, ex Cassa di Roma. Passiamo alla prima pagina della Repubblica. che anche in questo caso ha un titolo molto politico per riassumere un po' tutto quello che è successo ieri. Questa volta non è Berlusconi due punti, ma Renzi due punti, niente sconti a Berlusconi. Renzi ha detto, lo avete sentito anche nel GR, non farò la foglia di fico del PD. Per quanto riguarda il dialogo Letta e Epifani, ci sarebbe un piano B per votare subito. Questo fa parte di tutti i retroscena che si cerca di individuare da parte dei commentatori, da chi è a Montecitorio in questi giorni per capire davvero che cosa succederà. Ma dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo un articolo di Vittorio Zucconi, l'analisi di Vittorio Zucconi sullo quello che viene definito lo scafo d'Obama, che ha cancellato ieri il previsto faccia a faccia con Putin quest'autunno. Scrive, naturalmente quasi tutti pensano che non sia tanto una polemica per la legge anti-gay che c'è in Russia, ma una reazione al caso Edward Snowden, l'analista della CIA, che ha rivelato quanto fossimo tutti spiati dalla National Security Agency. L'analisi di Vittorio Zucconi si intitola Le ragioni del nuovo gelo. Schiaffo e controschiaffo, non proprio guerra fredda, ma gelata sui campi di una rivalità mai davvero superata. La decisione presa da Obama di non concedere a Putin il rituale faccia a faccia era inevitabile, mentre si alza anche una possibile tempesta attorno alle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014. Lo era proprio per una questione di faccia. Vi leggo ancora una piccola parte dell'editoriale dell'analisi di Vittorio Zucconi che dopo il piccolo stralcio in prima pagina della Repubblica continua a pagina 27. Elemento sempre fondamentale per capire i comportamenti russi e ora anche per gli americani, umiliati dalle rivelazioni di Edward Snowden e dal permesso di soggiorno per un anno, non un vero asilo politico, concesso da Mosca al ricercato della giustizia USA. Zucconi conclude: Snowden non è certamente un Oswald e non è neppure il Gary Powers, il pilota dell'aereo spia U2 abbattuto dalla contraerea di Khrushchev proprio alla vigilia del vertice con Eisenhower nel 1960, che si svolse regolarmente nonostante le bugie di Ike e la collera di Nikita. Ike era il soprannome di Eisenhower e Nikita era il nome appunto di Khrushchev. Sembra che ci siano sempre affari di spie e di spionaggio nell'alzare i venti gelidi che periodicamente tornano a soffiare su due grandi nazioni che non si fideranno mai l'una dell'altra. Anzi, anche se questa volta la spia è venuta dal caldo. Passiamo alla prima pagina della stampa. Anche la stampa sceglie di concentrarsi sulle questioni politiche, anche perché lo sappiamo tutti, il tempo stringe, stanno tutti per andare in vacanza in Parlamento, quindi si cerca di magari andare in vacanza con qualche certezza in più su come finirà questa lite PD-PDL, così titola proprio la stampa, Stop alle nuove leggi. Renzi sfida governo e partito, Letta faccia le cose e non cerchi alibi. Ma dalla prima pagina della stampa vi segnalo altri due articoli interessanti, due approfondimenti interessanti. Uno riguarda l'Egitto, ne abbiamo parlato anche ieri e non tutti i giorni si riesce ad avere degli aggiornamenti su quello che sta succedendo in Egitto. Su questa primavera egiziana e che davvero non sappiamo poi come finirà. E vi leggo poi dalle pagine interne, perché in prima pagina sono solo richiamati gli articoli che sono a pagina 15, ma dalla prima pagina vi segnalo anche un commento divertente di Bruno Gambarotta, che parte da questo dato che indicherebbe come la paghetta dei genitori dati ai figli piccoli, quelli che sicuramente non guadagnano ancora, non è stata toccata. E quindi il titolo è La crisi tocca tutto, ma non la paghetta. Per quello che riguarda la mia famiglia, scrive Bruno Gambarotta, l'istituto della paghetta esiste nel passaggio fra le generazioni ed è sempre stato un affare gestito dalle madri, in prima istanza, in appello dai nonni e in Cassazione dagli zii e dai fratelli maggiori. Immagino che i figli di genitori separati godano di qualche salvacondotto. La paghetta è un terreno perfetto per allenarsi alla contrattazione, un esercizio che ai ragazzi tornerà utile per il resto della vita, a iniziare dalla scadenza temporale. Io l'avevo mensile, uno dei miei nipoti la vuole quotidiana, come argine alla dissipazione. E poi appunto trovate in realtà la ricerca da cui prende spunto questo commento divertente di Bruno Gambarotta, le pagine 12 e 13. Ma dicevamo l'Egitto è a pagina 15 della stampa, c'è la cronaca fatta da Francesca Paci perché è fallita il tentativo di mediazione internazionale e c'è stato un ultimatum del governo egiziano agli islamisti in piazza. La pazienza è finita, lo sgombero è irrevocabile. E poi sono due analisi, appunto quelle richiamate in prima pagina, pagina. Una è di Abdullah Gül, presidente della Turchia. L'appello di Gül: liberate Morsi. Sapete, l'ex presidente egiziano che è agli arresti domiciliari. Il presidente turco dice: in Egitto, o si augura, in Egitto torni la democrazia, tutti devono partecipare alle prossime elezioni. E poi c'è un intervento di Bernard-Henri Lévy, che è un filosofo francese e giornalista francese. Le parole di Kerry: un grave errore politico. Il riferimento è alle parole di John Kerry, che ha appena macchiato la sua pagella di nuovo segretario di Stato USA. Segretario di Stato è l'equivalente del ministro, quello che noi chiamiamo ministro degli esteri, altrimenti impeccabile, commettendo il primo errore. Si può certamente pensare male dei fratelli musulmani. Io personalmente ritengo che la loro passata ideologia rappresentasse una versione araba del fascismo e che non si siano mai completamente dissociati dal loro terribile passato. Tuttavia, un golpe militare, quello che appunto c'è stato in Egitto, che ha prodotto 250 morti in appena 3 settimane, non si può certamente qualificare come ripristino della democrazia. È una questione semantica? Forse. Ma qualunque leader deve scegliere le parole esatte quando definisce gli eventi in corso, altrimenti commette un grave errore politico. Sicuramente un tema, questo di scegliere le parole e i tempi giusti per dire le cose, che tocca un po' tutti i politici. Ne sappiamo qualcosa noi con la polemica anche del politici, non solo, tutti quelli che hanno a che fare con la politica, ne sappiamo qualcosa noi con la polemica intorno all'intervista concessa dal giudice della Cassazione Esposito al Mattino. Ne riparleremo magari dopo. Dalla Stampa, sempre per rimanere negli esteri, su quelle le vicende che appunto continuano, anche se non ce ne occupiamo tutti i giorni, la Stampa si occupa anche dell'Iran, con il vice ministro degli esteri Pistelli, che concede un'intervista alla Stampa e dice: in Iran si è aperta una finestra, negoziamo prima che si richiuda. Il riferimento naturalmente è all'insediamento del nuovo presidente, che potrebbe veramente riconciliare l'Iran con la comunità internazionale e con gli Stati Uniti in particolare, che in questo momento hanno ancora contro l'Iran delle sanzioni economiche molto pesanti. Passiamo al Messaggero, perché sulla giornata politica di ieri, che sì, certo, si è svolta fuori da Montecitorio, ma anche nelle aule di Montecitorio, il Messaggero fa una sintesi che molto efficace di tutto quello che è stato approvato e quello che invece non è stato approvato e che sicuramente slitterà a dopo l'estate. Il titolo è: soldi ai partiti, rinvio beffa. E a pagina 2 ci sono 6 punti che ci spiegano che cosa è saltato: la legge sull'omofobia, quella sul finanziamento ai partiti, quella sul voto di scambio, quello che riguardava i concorsi nella pubblica amministrazione, le auto blu che erano entrate nella spending review e adesso si è un po' tutto bloccato, e il riordino dei tribunali. Il titolo però della pagina è: il decreto del fare passa, quello almeno è passato, a fatica, e i tagli ai partiti slittano a settembre. E vi accenno brevemente, poi lo approfondiamo subito dopo la pausa per gli aggiornamenti sul meteo. La prima pagina del Sole 24 Ore è tutta dedicata appunto al decreto del fare, a ciò che è stato approvato di importante per l'economia ieri. Il titolo è: incentivi alle imprese che assumono. Piano da 800 milioni per un posto ai giovani. Nel provvedimento anche lo stop, il famoso stop al famigerato aumento dell'IVA. Ci sono tantissimi altri approfondimenti su Sole 24 Ore, di cui parleremo subito dopo la pausa. Ora sentiamo le condizioni meteo, che riservano finalmente qualche sorpresa verso il fresco. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eccoci tornati sulle prime pagine dei giornali. Eravamo su quella del Sole 24 Ore, abbiamo visto come tutti gli altri quotidiani, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa e Messaggero, avevano un'apertura molto politica. Il Sole 24 Ore ce l'ha economica, per riassumere quello che vuol dire l'approvazione del decreto del fare che è passato ieri al Senato. C'è un editoriale di Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore e particolarmente attento, perché li ha sempre seguiti, ai temi del lavoro, che si intitola La strategia del formicaio. È in contraddizione con quello che abbiamo letto sul Corriere della Sera, che invece accusava, dove Alberto Alesina e Francesco Giavazzi accusavano sostanzialmente il Premier Letta di non aver fatto niente in questi giorni. Invece, secondo Alberto Rioli, quella che è in corso è una strategia dei piccoli passi. Aggiungo io, forse inevitabile quando un governo è fatto, deve fare così tanti compromessi, perché sappiamo com'è composto con membri, con posizioni politiche che molto diverse. La strategia del formicaio. Se due banchieri centrali, Ben Bernanke, capo della Fed, e il neopresidente della Bank of England, Mark Carney, hanno deciso di legare la loro azione all'abbattimento del tasso di disoccupazione, significa che il tema del lavoro è diventato sacro quanto quello della moneta. Le soluzioni prospettate dal governo Letta nel decreto lavoro, che ieri è stato trasformato in legge dalla Camera, non sembrano ancora all'altezza di questa svolta epocale, ma vanno nella direzione giusta, seppur ancora scarseggino quanto a risorse finanziarie. È importante l'azione, semplice e diretta, dell'incentivazione delle assunzioni stabili e del bonus per le trasformazioni dei contratti a termine in rapporti full time. Ha una dote di un po' meno di 800 milioni su più anni, poco purtroppo. Il potenziale su cui punta il ministro del lavoro Enrico Giovannini è di 100.000 nuovi occupati in 3 anni. I disoccupati in Italia sono oltre 3 milioni e per raggiungere il livello di occupazione pre-crisi, come stimato dal rapporto 2013 dell'ILO, serviranno almeno 1,7 milioni di posti di lavoro in più. Va apprezzata la buona volontà dunque, ma l'impegno resta ancora gravoso. L'articolo prosegue poi a pagina 3. E appunto cerca di vedere comunque il bicchiere mezzo pieno, perché questa è la prima vera misura per incentivare l'occupazione che si vede da tanti tanti mesi. Sul Sole 24 Ore prosegue anche oggi, e l'abbiamo segnalato anche nei giorni scorsi, questi due speciali paralleli, questi due approfondimenti paralleli. Uno è sul portafoglio, approfondimenti estivi, uno sul portafoglio. Oggi ci si occupa dei titoli difensivi, proteggersi dall'inflazione, come sfruttare le opportunità con il tasso sceso ai minimi. E per quanto riguarda invece la serie sulla casa, oggi ci si occupa di divisione. È sempre conveniente, questa è la sintesi dell'articolo di Angelo Busani, esperto di temi della casa, è sempre conveniente sciogliere la comunione del bene. Sempre dal Sole 24 Ore oggi, nel Sole 24 Ore oggi trovate un inserto proprio che si può, una guida che si può staccare, ed è sul bonus casa. Sapete che sono stati ripristinati questi bonus casa. Oggi la guida di oggi si occupa in particolare del risparmio energetico. Dal 6 giugno infatti lo sconto è aumentato al 65%, il limite di spesa è fissato a 96.000 euro, e ci sono tutti i dettagli in questa guida. Dal Sole 24 Ore vi segnalo un articolo su un tema che abbiamo sfiorato anche ieri, che è quello della riforma delle carceri. Le nostre carceri sovraffollate sono state progettate per 45.000 detenuti, ce ne sono 20.000 in più, e ora naturalmente si parla dell'ennesima riforma delle carceri e del cosiddetto decreto svuota carceri. Ci parla di tutto quello che sta succedendo Donatella Stasio, che è l'esperta del Sole 24 Ore per tutto quello che riguarda la giustizia. Carceri, resta la stretta per i recidivi reiterati. Con i mancati ingressi il decreto ha già ridotto il numero dei detenuti, scrive Donatella Stasio. Il decreto svuota carceri verso la conversione in legge. Ieri il Senato si è rimangiato lo svuotamento votato in prima lettura e ha ratificato il testo rimpinguato dalla Camera. Ciò nonostante, il provvedimento va ad allungare la lista dei primi passi, perché non è riuscita a cancellare del tutto le norme del 2005 contro i recidivi reiterati, che sono circa il 70% dei detenuti, estromessi dalla ex Cirielli da qualunque beneficio, sebbene spesso si tratti di recidiva generica, riguardanti reati bagatellari e diversissimi tra loro, commessi a distanza di molto tempo. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche un articolo a pagina 36 di Nicoletta Cottone sulla assunzione degli immigrati. Il tema dell'immigrazione è caldissimo, poi vedremo anche come viene trattata la questione dei profughi respinti da Malta e che l'Italia si è offerta di accogliere, perché un rapporto Union Camere mostra come siano crollate le assunzioni di immigrati. È naturalmente uno dei tantissimi effetti della crisi, e nel 2013, spiega questo rapporto, sono previste 17.610 assunzioni in meno di lavoratori non stagionali rispetto all'anno prima. Tra le regioni, in Piemonte e Lazio la situazione è più critica, mentre tra le grandi città spiccano Torino, Roma e Milano. Vediamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, perché sul Fatto Quotidiano e anche su altri giornali molto schierati come Il Giornale e Libero, che vedremo subito dopo, è l'apertura della prima, il titolo di apertura è quello sulla questione del giudice di cui abbiamo parlato tanto ieri, il giudice Esposito che ha letto, dopo il presidente della Cassazione, che dopo aver letto la sentenza di conferma di condanna di Berlusconi, ha poi rilasciato un'intervista al Mattino, che poi addirittura di cui la trascrizione della quale e l'audio della quale è stato poi messo sul sito, dal sito del Mattino e dal giornale, dal sito del Mattino è ripresa da tutti, e dove appunto rilasciava delle dichiarazioni quantomeno inopportune. Processano il giudice, assolvono il condannato. Il CSM apre una pratica disciplinare, l'avete sentito anche nel GR, questa è appunto una decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, sul presidente della Cassazione Esposito, reo di aver detto che Berlusconi è stato condannato perché colpevole. La giunta del Senato prende tempo, dateci le motivazioni su Mediaset, intanto il partito dell'impunità acquista nuove leve anche a sinistra, dove si lavora l'amnistia. E si riporta la dichiarazione di Grillo, vogliono graziare il santo patrono di tutti gli evasori. C'è un lungo editoriale di Marco Travaglio, dico lungo perché normalmente inizia e finisce in prima pagina l'editoriale di Marco Travaglio, invece in questo caso continua. E tra l'altro, se c'è il tempo dopo ve ne leggo una parte, però devo dire poi c'è anche il parere sempre sul fatto di Bruno Tinti, ecco a pagina 18. Bruno Tinti è un ex magistrato, ha scritto anche un libro che mi sembra si chiamasse Toghe Sporche, molto critico verso la magistratura, o meglio, molto cerca di essere costruttivamente critico, cioè è il primo a dire che ci sono delle riforme da fare e il suo intervento viene titolato L'insostenibile leggerezza di Esposito. Il lavoro del giudice è stato inattaccabile fino all'intervista del Mattino, appunto, ma doveva evitare di parlare con la stampa perché la corte di Berlusconi non aspettava altro. Questa è la sintesi che fa Bruno Tinti della vicenda Esposito. La prima pagina del giornale, lo strano doppio lavoro del giudice bugiardo. Qui si fa un passo oltre nell'indagare appunto la persona di questo giudice. Secondo il giornale, il giudice è anche presidente dell'ISPI, che è un ente di formazione, e ci sarebbero dei parenti coinvolti. Quindi, secondo il giornale, queste sono le attività di Esposito extra Cassazione che lo screditerebbero ulteriormente. Poi c'è un editoriale più generale sulla necessità di riforma della giustizia, su cui sembrano tutti d'accordo, però poi in realtà una riforma seria non riusciamo a vederla da tanti anni. In questo caso l'intervento è di Vittorio Feltri, Il dovere della pulizia, giustizia nel caos. E fa riferimento a quell'editoriale di Angelo Panebianco, di cui abbiamo letto anche qualche riga noi alcuni giorni fa sul Corriere della Sera. Libero, Silvio dà i 7 giorni. Berlusconi sulla graticola, alla faccia di Epifani e degli altri manettari. Napolitano sta cercando una soluzione per evitare che il leader della centrodestra vada in galera, ma lui aspetterà fino a Ferragosto, poi fuoco alle polveri, quindi per questo appunto 7 giorni, perché ne mancano 7 a Ferragosto. Lo spettro del cavaliere è che se lo condannano, scrive il giornale, per rubi, rischia di non uscire mai più dalla cella, perché come sappiamo ci sono anche altri processi in corso di cui si aspetta. L'esito e sono imminenti, saranno a questo punto naturalmente dopo le ferie, però sono appunto pesano un po' sul futuro di Berlusconi. Torniamo al Corriere della Sera per alcuni articoli dalle pagine interne. Questo l'ho trovato questo solo sul Corriere della Sera, sono i dati della clinica Mangiagalli, che è forse la più famosa, dove c'è il più famoso reparto di ginecologia di Milano. Il 60% delle neomamme ha una laurea, il titolo è In sala parto sempre più tardi, il sorpasso delle quarantenni. Le donne tra i 35 e i 44 anni fanno più figlie di quelle tra i 25 e i 34. Forse questa era un'inversione di tendenza che molti di noi avevano intuito, anche soltanto guardandoci intorno. È sicuramente probabilmente una cosa che succede più nelle grandi città, questi sono appunto dati di Milano, che non nei piccoli centri, però potrebbe, secondo Alessandra Kusterman, che è il primario della Mangiagalli, è appunto un'inversione di tendenza epocale. C'è un commento di Chiara Lalli: non chiamate le egoiste, saranno madri più attente. Poi un'altra piccola rivoluzione, perché l'Italia è arrivata un po' tardi in questo, però stiamo recuperando, ed è quella del car sharing. L'articolo, l'approfondimento del Corriere della Sera parla in particolare della situazione a Berlino, dove il car sharing è veramente ormai è diventato quasi un mantra per i giovani tedeschi, però per esempio c'è anche a Milano, c'è anche a Roma, e il car sharing è simile al bike sharing, cioè si fa una tessera e poi si possono utilizzare le macchine che sono parcheggiate parcheggiate in appositi parcheggi quando se ne ha bisogno. Si può fare un abbonamento annuale o utilizzarla una tantum. Naturalmente si può così rinunciare ai vari costi che comporta l'avere un'auto, dall'assicurazione al garage, a tutto quello che sappiamo. Quindi, insomma, il car sharing, che soprattutto nelle grandi città prende sempre più piede. Vi segnalo dal Corriere della Sera un po' perché ne abbiamo parlato ieri, ma è comunque un argomento interessante. Ieri, vi ricorderete, abbiamo letto quella lettera di un critico, Tommaso Montanari, che scriveva al Corriere della Sera dicendo: al di là di quanto così può essere poco piacevole, poco, o forse anche addirittura censurabile, la decisione di Giovanna Melandri, che dopo un anno di lavoro pro bono come presidente del Maxi ha deciso di darsi uno stipendio, molto criticato. La notizia era stata data da Gian Antonio Stella sul Corriere, e Giovanna Melandri aveva, ex ministro della Cultura, subito scritto dicendo: insomma, dopo un anno è giusto che abbia uno stipendio. E ieri Tommaso Montanari diceva: non è tanto quello il problema, anche se sicuramente è uno di quei fatti concreti che fanno effetto in un momento di crisi. Il problema è la meritocrazia, cioè mettere ai vertici di questi grandi musei delle persone competenti e non delle persone che avevano, secondo lui, solo dei meriti politici. Questa volta è Evelina Cristillin a intervenire. Che scrive al Corriere della Sera, dice: il Museo Egizio si può gestire da manager. Appunto, lei è la presidente del Museo Egizio, mentre Tommaso Montanari auspicava un egittologo al vertice del Museo Egizio. E Evelina Cristillin, che ricordiamo ha per esempio gestito con successo le Olimpiadi invernali di Torino di qualche anno fa, dice: beh, si può, se il manager lascia le competenze, diciamo, più tecniche a un consulente, a un direttore artistico, chiamiamolo così, che magari può essere un egittologo, io come manager posso invece occuparmi di tante altre cose. E passiamo alle pagine interne di Repubblica. Qui c'è invece un articolo che fa molto effetto, perché quante volte abbiamo sentito parlare di riscaldamento globale, degli effetti al Polo Nord. Ecco, qui c'è una storia che forse spiega molto più di tanti discorsi e liti tra climatologi. L'articolo si intitola "Col grande orso bianco ucciso dal ghiaccio perduto". Al Polo Nord è stata scoperta una carcassa dagli scienziati, una carcassa lungo il fiordo dello Svalbard. Questo orso era morto di fame perché in queste lande ormai desolate non aveva trovato cibo. Secondo le previsioni, riassume l'articolo della Repubblica, lo scioglimento dei ghiacci porterà alla perdita di un terzo o metà degli orsi polari nei prossimi 45 anni. Vi segnalo un ultimo approfondimento prima di lasciare lo spazio al traffico, ed è dalla stampa un'intervista al sottosegretario Giovanni Legnini, che abbiamo nominato anche ieri perché è partita questa intesa per il supporto del governo alla crisi dell'editoria, e dice una cosa interessante: apriremo ai giovani le porte dei giornali. Cioè lo scopo ultimo di questi aiuti all'editoria non è tanto quello di conservare noi giornalisti, che un lavoro ce l'abbiamo già, ma di dare opportunità ai giovani di fare questo lavoro, dove invece adesso purtroppo di posizioni aperte non ce ne sono, perché vi assicuro è un bellissimo lavoro e sono sicura che molti giovani sognano di fare il giornalista. Ma lasciamo lo spazio al traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Dopo aver visto le prime pagine dei giornali, stavamo guardando gli approfondimenti interessanti all'interno. Passiamo alle pagine interne del Messaggero. C'è un interessantissimo, secondo me, articolo di Rosario Di Mito, che si intitola "Arnault spinge la presa di Vuitton sull'Italia". Bernard Arnault, oltre a essere l'uomo più ricco di Francia, è anche presidente e amministratore delegato di LVMH, che è il più grande gruppo del lusso al mondo. E forse ricorderete, in giugno ha comprato la pasticceria Cova a Milano, e poi subito dopo ha comprato l'Oro Piana, che è una grandissima azienda italiana, attiva soprattutto, nel tessile. Ha una divisione tessile, una divisione prodotto finito, ha fatturato 2012 quasi 700 milioni di euro, quindi un'azienda grande. Lui l'ha comprata per 2 miliardi e ha fatto così, ha aumentato lo shopping, con tutte le anche polemiche che ci sono state sull'incapacità di alcune aziende italiane di restare italiane, o magari sull'incapacità dell'Italia di formare un polo del lusso. Ma secondo Di Mito, che ha guardato quello che sta succedendo alla struttura societaria di LVMH, è cambiata la subholding che si occupa dell'Italia, e il colosso francese vuole entrare in settori come libri ed editoria e poi esportare i marchi che compra qui. Presto Cova, per esempio, potrebbe sbarcare a Parigi. E quindi, insomma, con tutti i discorsi che sono stati fatti, certamente Fa un po' effetto vedere che i marchi italiani diventano sulla carta d'identità francesi, però per quello che ho potuto vedere io in questi anni, tutto quello che Arnault ha comprato in Italia, da Fendi a Emilio Pucci, ha poi mantenuto fortemente italiano per tutto quello che era importante, a cominciare dall'occupazione. Quindi forse non è tutto negativo, insomma, non va vista come una cosa negativa questa delle aziende, le grandi aziende serie straniere che comprano marchi italiani per. Sì, certo, farne profitti, però mantenendo in Italia le attività core e salvando quindi l'occupazione, che è la cosa più importante. Dal foglio, segnalo una pagina che ho trovato, insomma, anche una bella idea, forse addirittura, insomma, quasi da copiare, magari, perché tanto libri ce ne sono tanti, è appunto una pagina di consigli di libri. Il titolo è Asino chi non li legge, Maria Rosa Mancuso, che scrive spesso di cinema, ma anche di letteratura per il foglio, ha scovato. Ha scelto dei libri che secondo lei Grillo, Letta, Renzi, Bersani, Monti e Berlusconi dovrebbero leggere quest'estate. Una guida semiseria, la definisce lei stessa, ai libri che i politici più scalmanati dovrebbero leggere per sopravvivere alla famosa guerra civile. Sapete che questo spettro della guerra civile è stato evocato da Sandro Bondi, ex portavoce del PDL, ex ministro della cultura. Ed è divertente quello che Maria Rosa Mancuso consiglia a Silvio Berlusconi: è Casa Desolata, un classico di Charles Dickens. Non per la casa, di tante che lui ne ha, scrive Maria Rosa Mancuso, neppure per la desolazione, è per la causa interminabile Jarndyce contro Jarndyce, che occupa gran parte del colossale romanzo e offre a Dickens l'occasione di dire tutto il male possibile del sistema giudiziario britannico, dei giudici e pure degli avvocati. E si era a metà dell'Ottocento, prima della riforma. All'origine, un lascito ereditario contestato che comprende la casa contenuta del titolo ha già scucito ai contendenti 70.000 sterline dell'epoca per spese legali. Dickens era stato praticante in materie legali, si era battuto strenamente per i suoi diritti d'autore, finché decise che non era roba per lui e si dedicò al romanzo. Mentre a Mario Monti, Maria Rosa Mancuso consiglia L'uomo incontrò il cane di Conrad Lorenz, un libro bellissimo, tra parentesi. E scrive Maria Rosa Mancuso: nel capitolo Cane padrone leggiamo: molti e diversi tra loro sono i motivi che possono spingere la gente ad acquistare e a tenere un cane, e non tutti sono buoni. La ricerca del consenso elettorale non è contemplata. Il riferimento naturalmente è a quella volta che Mario Monti si fece durante una trasmissione, mi sembra con il talk show di Daria Bignardi, si fece riprendere con un cane in braccio e tutti pensarono, con insomma, una specie di equivoco, che il cane fosse suo, in realtà l'aveva adottato appena prima della trasmissione, insomma, fece poi il giro di tutti i giornali, tutte le trasmissioni, questa fotografia di Monti con il cane, un episodio che poi non gli portò così tanta fortuna. Dal foglio, vi segnalo anche perché il foglio ha, secondo me, degli approfondimenti sempre molto interessanti di politica estera, un articolo sull'Iran, legato all'Iran, ma che vede protagonista anche Israele. L'altra questione israeliana, sapete che di recente il premier Netanyahu ha cercato di nuovo di rilanciare i negoziati con i palestinesi. Scrive il foglio: terra in cambio dell'Iran, ecco il grande baratto di Bibi, così è il soprannome di Netanyahu, appunto il premier, l'attuale premier israeliano. Netanyahu sarebbe pronto a trattare sull'86% dei territori occupati, ma nessuna minaccia verrà da oltre il Giordano, cioè vorrebbe appunto delle assicurazioni che Israele potesse finalmente non considerare più la minaccia dall'Iran. Passiamo alla prima pagina dell'Avvenire. Qui è un titolo politico che viene sintetizzato con febbre giustizia, perché appunto c'è il caso Esposito al GSM, l'alta tensione PD-PDL su Berlusconi. E poi però in prima pagina c'è anche il fatto dei profughi che l'Italia accoglierà perché erano stati abbandonati da Malta. 102 persone appunto che arrivavano dalla Libia e che l'Italia si è offerta di accogliere. E poi, come ricorderete, nei giorni scorsi c'erano state due puntate sugli uteri in affitto, oggi c'è la terza puntata. In questo la prima puntata era dedicata alle donne in India che danno il proprio utero in affitto, la seconda a quelle ucraine e russe. Oggi invece l'Avvenire si occupa di quelle dell'America Latina, il fiorente mercato del bebè, chiavi in mano. Ma visto che abbiamo parlato, e ieri ne avevamo parlato citando le prime pagine della Padania e del Manifesto, che erano i due quotidiani che mettevano la questione dei profughi respinti da Malta in prima pagina, vediamo oggi come trattano appunto la soluzione della questione La Padania e e il manifesto, la Padania la rimette in copertina e si chiama, il titolo è La Val e poi in corsivo Letta, perché pare, come avete sentito anche nel GR, che questa decisione dell'Italia di accogliere i profughi sia stata proprio una decisione di Enrico Letta, il Premier. I clandestini respinti da Malta, accolti a braccia aperte dal Presidente del Consiglio italiano, che ha chinato il capo di fronte ai richiami europei. Il carroccio, governo debole e ridicolo, trattato come l'utile idiota. Un sobrio sommario, come sempre, quello della Padania, che approfondisce poi la questione all'interno. E vi segnalo anche, perché questo secondo me è proprio il modo in cui, non lo so, non dovrebbero essere date le notizie, o perché non serve a nulla fomentare l'odio, parliamoci chiaro in questo modo. Ricorderete l'articolo che ho citato dal Sole 24 Ore con i dati di Unioncamere, che indicano un calo dei posti di lavoro dati agli immigrati, perché c'è crisi, quindi calano tutte le offerte di lavoro, anche quelle per gli immigrati. Titola la Padania: gli diamo lavoro, tra virgolette, balle, le imprese tagliano i posti, crollano le richieste di lavoro immigrati. E appunto la notizia è la stessa, però il titolo cambia moltissimo, la pesantezza delle parole, potremmo dirla. Potremmo dire. Il manifesto non ha in copertina questa notizia oggi, perché dedica la copertina alla politica, però c'è un approfondimento all'interno, a pagina 5, la svolta umanitaria dell'Italia. Letta sblocca la contesa tra Malta e UE, ieri a Siracusa i 102 migranti respinti dalla Valletta. L'Unione ringrazia il governo italiano, ma ammonisce: serve più cooperazione tra gli stati membri. La prima pagina dell'Unità, il piano PDL per votare subito. Questo è un altro dei tanti retroscena. Nessuno ha fatto questa dichiarazione, però serpeggia anche questa possibilità, appunto, di votare il più presto possibile. E poi in prima pagina anche l'Unità riporta la questione degli immigrati a Siracusa, i migranti respinti da Malta. C'è una foto di due di questi migrati sbarcati dalla nave. Passiamo un attimo alla Gazzetta dello Sport. Ieri vi ho dato l'aggiornamento su quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo, nelle acque di San Francisco. A Luna Rossa, impegnata nella Whitton Cup, ha vinto un'altra volta, di nuovo contro Artemis, il consorzio svedese guidato da Paul Caillard, ex skipper del Moro di Venezia. Di nuovo preceduta al via d'Artemis, sorpassa la prima boia e poi è imprendibile. Il percorso verso la finale, siamo a 2-0, è a metà dell'opera. Dall'Avvenire un altro articolo molto interessante, come sempre l'Avvenire ha il merito di parlare di questioni che non sono magari di stretta attualità, ma se ci pensiamo poi in realtà lo sono, anche se non succede niente di particolare, e la questione è quella delle adozioni. Quante volte ci siamo chiesti perché non si riescano a rendere più veloci le adozioni se ci sono nel mondo così tanti bambini da adottare? Ecco, l'Avvenire scrive: adozioni, 1.491 minori attendono una famiglia, e c'è una ricerca che l'Avvenire cita, e sono numeri certi, sottolinea il presidente di Amici dei Bambini. Non si possono avviare pratiche internazionali, anche se dagli Stati Uniti arrivano sempre nuove richieste. E dal Fatto, infine, vi segnalo a pagina 10 e 11 il ricordo con la pubblicazione di alcuni articoli di quel grandissimo giornalista che è stato Enzo Biagi. E appunto è proprio un pezzo di Enzo Biagi, che il Foglio Repubblica, dove Enzo Biagi raccontava il suo esordio. Parlavamo prima di giovani giornalisti. Il mio primo pezzo vero sul finto fakiro, l'esordio a 17 anni sul giornalino della scuola, che si chiamava Il Picchio, soppresso dal regime fascista dopo aver stampato pochi numeri. Questo bel ricordo di Enzo Biagi. Siamo anche oggi alla fine. Oggi c'è in edicola Panorama. Vi segnalo solo la copertina. Il titolo della copertina si occupa della questione TripAdvisor, quel sito di consigli per viaggiare che si è scoperto li tarocca un pochino. Ti sei fodato dei consigli per le vacanze? I viaggi e le ferie ormai si decidono sul sito TripAdvisor. Occhio però, avverte a Panorama, a volte le indicazioni si basano sulle bufale. Era veramente l'ultima segnalazione. Ancora buonissima giornata da Giulia Crivelli, e ci sentiamo domani.